Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Di Alessandro Chiappini, nostro regista, e di Riccardo Silvi, nostro redattore, naturalmente anche vostro, visto che continuate a seguirci con immutata simpatia ormai da 3 anni. Questa puntata sarà anche della nostra guida, Lorenzo De Figlio, benvenuto. Benvenuto. Navigando su internet, Lorenzo De Figlio viene definito professore, dottore, fa il medico, fa il medico chirurgo, e noi lo abbiamo, diciamo così, più o meno intercettato anche attraverso un curiosissimo fenomeno, che è una specie di fans club del dottor De Figlio, che si chiama www.savailtuorene. Perché? Perché il dottor De Figlio viene da un corso, è il 5° corso internazionale di ureteroscopia flessibile, riesce a operare quello che poi sono gli accidenti, adesso ci dirà, del rene, senza appunto togliere il rene, lasciando la funzionalità del rene, addirittura senza neanche ricorrere a tagli, con un metodo che adesso ci spiegherà, ma all'interno di una struttura anche pubblica, per cui in realtà si parla tanto, spesso e volentieri, di una medicina che ci sposta continuamente i confini, ci rende, che so, quasi possibile quelli che erano miraggi, addirittura che è la notizia di oggi, che un transessuale è diventato in America per la seconda volta mammo, e quindi così registriamo queste, e dimentichiamo che dentro le strutture pubbliche in Italia avvengono dei miracoli, che per esempio, adesso ci do la parola alla nostra guida, ogni volta che si evita che un cittadino vada in dialisi si fa un risparmio notevole per la sanità pubblica. È vero, è vero. Allora, io sono urologo, sono primario urologo all'ospedale Cristo Re di Roma, e da anni, e sono un... è vero, tu mi hai detto che c'è un club di fans, ma io stesso sono un fans appassionato di questa tecnica, della ureterorenoscopia flessibile, che la pratico ormai da 15 anni, e si tratta di strumenti piccolissimi, flessibili, a fibre ottiche, adesso anche digitali, che penetrano dall'esterno tra le cellule naturali, quindi dall'uretra, vanno in vescica, risalgono attraverso l'uretere ed entrano nel rene. Quindi da dentro fanno quello che normalmente si fa, una cistoscopia, e noi guardiamo dentro anche l'uretere e dentro il rene, con la stessa tecnica, soltanto strumenti più elaborati. Questo ci permette non soltanto di esplorare, di guardare qualunque problema ci sia dentro, ma anche, grazie agli accessori delle fibre laser piccolissime, anche di operare all'interno, quindi di prolungamento del nostro braccio. Sono delle fibre sottilissime, grandi quanto un capello, che permettono di rompere un calcolo, fare un'ablazione, di coagulare un tumore. E permette questo di essere minimamente invasivi, quindi non c'è taglio, interventi che durano un'oretta, si possono fare anche in day hospital o al massimo con un giorno di ricovero, quindi poco trauma, poche complicanze, quasi nulle, con una grandissima gratificazione per il paziente. Quando si tratta, come giustamente accennavi tu, si tratta al trattamento di tumori, ovviamente i tumori che crescono all'interno del rene, perché ci sono diversi tipi, due tipi di tumori, tumori che crescono all'esterno e quelli all'interno delle vie urinarie. Noi operiamo quelli che sono all'interno delle vie urinarie, quelli che danno sangue in genere come primo segno. La cosa bella è che riusciamo, in molti casi, non in tutti, ma in molti casi riusciamo ad asportare il tumore, quei tumori che si possono asportare superficiali, senza togliere il rene. Questo comporta per il paziente una gratificazione impressionante, cioè il paziente, soprattutto parlando del monorene, che gli permettiamo il giorno dopo di andare a casa e di evitare di togliere un rene, di evitare di fare la dialisi, è una gratificazione per il paziente, ma una soddisfazione immensa per noi. Cioè io credo che non ci sia nessun lavoro, o meno pochi lavori al mondo, danno una soddisfazione e una gratificazione così immediata e così importante. Cioè agli occhi di queste persone è veramente, sei veramente, non dico, sei messo su un piedistallo. Senza contare che questo comporta, come accennavi tu, un grandissimo risparmio per la struttura pubblica. E basta contare, è stato calcolato in uno studio recente americano, che per ogni paziente che va in dialisi si risparmia, rispetto a questi pazienti in cui si mantiene il rene, si risparmia circa $250,000 all'anno. Senza contare la diversa qualità di vita. Sappiamo che il paziente che noi operiamo per via endoscopica il giorno dopo può ritornare alle sue mansioni normali, mentre il paziente in dialisi sappiamo il calvario che deve subire 3 volte alla settimana essere legato a una macchina. E senza contare il fatto che i pazienti che vanno in dialisi hanno una vita molto ridotta. Calcoliamo che i pazienti che noi operiamo intorno a 60, in media questi pazienti hanno su intorno ai 70 anni, a 70 anni la durata media di un paziente dializzato è a 5 anni, 1 su 5 pazienti e 4 pazienti su 5 sono morti entro 5 anni. Quindi oltre a migliorare la qualità della vita, gli allunghiamo anche la vita. Questo aspetto del fan club è nato proprio da uno di questi pazienti che aveva un tumore a tutte e due i reni e gli avevano consigliato in un ospedale a Roma di portare via prima un rene e poi l'altro. Nottetempo è scappato dall'ospedale, mi ha cercato e attualmente sono anni che vive con tutte e due i reni ed è estremamente felice e ha fatto questa associazione allo scopo proprio di divulgare la tecnica e fare in modo che altra gente come lui possa essere informata e non disinformata dal medico su queste possibilità terapeutiche. Perché il problema, vedi, è proprio questo. Noi stiamo facendo tutto il possibile per avere un riconoscimento dalla regione, per essere riconosciuti come centro di eccellenza quantomeno regionale, ma lo scopo proprio per poter aiutare altre persone a sapere, a conoscere questa tecnica, quindi a pubblicizzarlo. Infatti io ti sono molto grato che mi dai questa possibilità di parlare di questa tecnica alla radio con tanti ascoltatori, perché questo mi permette di arrivare a molta più gente ed evitare quindi di portare via dei reni e migliorare la qualità di vita di tante persone. Poi mi ha anche stupito vedendo il sito www.salvailtuorene, che poi in realtà dentro questo che poi è l'incontro di un medico dentro una struttura pubblica con dei pazienti, un po' sappiamo tutti che il medico un po' si sceglie, un po' si viene scelti dalle circostanze, comunque un rapporto, un'alleanza strategica, perché è comunque un rapporto diverso da quelli che noi incontriamo nella nostra quotidianità, ma c'è questa specie di controllo democratico, perché è vero, adesso ci sono quelli che incontrano questo modo di assistere il proprio rene, ne traggono beneficio e sono felicissimi. Però potrebbe essere anche il contrario, cioè attraverso, diciamo così, la rete arriva anche l'intrusione di una forza democratica dentro la pratica medica. Sì, hai ragione. Comunque in questo questi i pazienti hanno fatto esattamente in questo forum, hanno fatto un forum di pazienti che ha raccontato in questo sito le loro esperienze e quindi lo scopo è quello di associare sempre più. In realtà comunque la tecnica è una tecnica delicata che non è sempre realizzabile, e in ogni caso da ricordare che questi pazienti che salvano il rene in realtà hanno un bisogno di controlli periodici, devono essere sempre sottoposti, devono sempre essere vincolati al medico e alla tecnica. Laddove invece il medico non è in grado di fornire questa tecnica, togliendo il rene non evita di preoccuparsi dei controlli, però bisogna ricordare che togliendo un rene anche l'altro rene ha una maggiore possibilità di andare incontro a un'insufficienza renale cronica, quindi a danneggiarsi nel tempo, e anche l'altro rene potrebbe avere un tumore, cioè un'incidenza di tumore nell'altro lato, per cui sono pazienti che devono essere seguiti. Sì, diciamo così, questo avviene e questo poi, diciamo così, parleremo ancora un po' di massimi sistemi e anche di... questo corso internazionale di ureteroscopia flessibile fatto all'ospedale Cristo Re di Roma, che è un ospedale pubblico, diciamo così, quanti altri posti nel mondo ci sono dove la gente viene per apprendere questa tecnica? Devo dire pochi. Abbiamo una faculty, abbiamo avuto degli insegnanti di livello internazionale, a livello mondiale, sono tra i più grossi, i più alti endourologi del mondo. E abbiamo avuto 100 partecipanti, di cui una buona fetta erano europei, da tutta Europa, gente che è venuta da Turchia, da Azerbaigian, da Croazia, Inghilterra, e sono attirati dall'aspetto didattico, tanto che siccome uno dei nostri docenti fa parte della scuola europea di urologia, stiamo diventando uno dei punti di riferimento in questa tecnica, almeno in Europa siamo uno dei corsi, quelli che danno una maggiore qualità, uno dei corsi migliori. In America no, ci sono altri corsi del genere, però non è molto diffusa, né in Italia né in America. Bene, questo l'abbiamo fatto apposta per concludere così, perché non è la chirurgia chic e sciocca, è la chirurgia di un ospedale pubblico in Italia che, oltre ad essere utile per il sistema sanitario, riesce anche ad insegnare il mestiere e vengono per sentirlo. In Italia, in cui sembra che tutto debba essere rifatto, forse tanti tanto ricordarci che già molto si fa, come ci dice il dottor Lorenzo De Figlio, fa bene a tutti. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Ed è il dottor Lorenzo De Figlio, la nostra guida questa settimana. Ve l'abbiamo appena detto, il dottor De Figlio ha appena terminato il quinto corso internazionale di ureteroscopia flessibile, era il presidente di questo corso. In un ospedale pubblico italiano tanta gente, tanti medici di tutta Europa sono venuti ad apprendere una tecnica che, dentro una struttura pubblica, rende accessibile cure di ottima qualità, di alta specializzazione a tutti, senza ricondurlo. E questo, dicevamo, un po' a microfoni spenti, è anche una parte di questo popolo sovrano che si dà le leggi, perché l'Italia è fatta anche di gente che interagisce, fa nascere le vere norme che poi tentiamo di condividere in questo nostro cielo provvisorio. C'è una massima che mi hai detto, ti ripeti la mattina quando inizi a lavorare. Sì, c'è una massima, non è che mi realmente me la ogni mattina me la incontro lungo la strada, facendo la strada, andando in ospedale, e incontro su questo palazzo sul Lungotevere, e incontro questa massima latina che ogni giorno mi ricorda come mi devo comportare, come io mi comporto tutti i giorni, e mi ricorda quello che devo fare. La massima è nil difficile volenti, che in realtà non è esattamente così. In realtà non è vero che si possa fare tutto soltanto con la volontà, però ci fa capire come l'impegno giornaliero può portare il sacrificio, può portare a dei risultati, purché lo si voglia. Se uno desidera, ha degli obiettivi e crede in quegli obiettivi, allora deve sprecare tutte le sue energie per realizzarlo, e l'impegno vale la pena perché io ci credo, cioè c'è sempre la possibilità di vederlo risultati, di ottenere dei risultati. Ma esercitare la medicina in Italia nel 2009 con questa forma così che hai scelto, dentro le strutture pubbliche, affrontando una quotidianità che è inutile fare finta di non saperlo, a 10.000 difficoltà, compreso quello di voler rivedere il modello di welfare a cui questa sanità pubblica si era ispirata durante dei decenni. Cosa propone, diciamo, all'impegno medico, così proprio come giorno per giorno? Cioè, qual è la difficoltà che una volontà umana e medica deve con santa pazienza affrontare per superare? Le difficoltà sono tante, in cui molte abbiamo già molte le abbiamo accettate come difficoltà. Quello che manca nel sistema italiano è fondamentalmente la mentalità organizzativa anglosassone, in cui io ho viaggiato tanto negli Stati Uniti, in Inghilterra, è un altro modo organizzativo. Ci manca il concetto di responsabilizzazione delle persone, che è una cosa che non raggiungeremo mai, penso neanche in 200 anni. C'è sempre uno scarica responsabilità. Sono poche le persone che vogliono impegnarsi e prendersi una responsabilità. Per quanto riguarda questo, è fondamentale, lo ritengo una cosa molto importante. Per il resto, devo dire, come strutture, personalmente io nel mio ospedale sono soddisfatto, tecnologicamente riesco ad avere il massimo di strutture, o quasi il massimo di quello che io posso desiderare, cioè sono soddisfatto dal punto di vista tecnico e tecnologico, ma dal punto di vista di mentalità difficilmente lo potremmo avere. Qualunque ospedale italiano non riuscirà mai a avvicinarsi a quei canoni, il concetto di quei canoni europei o principalmente americani. Il concetto di meritocrazia da noi non esiste, non esisterà mai, e questo per noi ormai è una forma che accettiamo, che sopportiamo, che tolleriamo, perché sappiamo che non riusciremo mai a cambiarla. Però è quello che mi manca. Sarebbe stato strano se la meritocrazia venisse riconosciuta in ambito medico, perché sarebbe comunque un buon inizio su questo panorama nazionale, dove anche recentemente, insomma, abbiamo avuto molto da discutere su chi meritasse o meno di essere candidato, che so, al Parlamento europeo. Però visto dal lato anche del medico, perché si parla spesso di medicina dalla parte del paziente, il paziente medio di inizio terzo millennio è cambiato per rapporto ai pazienti? Sono più attenti alla propria salute, oppure vengono verso il medico quando le situazioni sono già conclamate? Diciamo, quello che è cambiato è principalmente, questo lo vediamo tutti i giorni, innanzitutto il loro grado di preparazione alla malattia. Oggi c'è una maggiore informazione, vuoi su internet, quasi molti leggono, guardano i siti o navigano e cercano di avere più informazioni possibili. Quindi quando lui e siamo arrivati al dunque, vediamo già il paziente preparato sulle possibili opzioni, e questo è un dato positivo. Il concetto di quello di cui parlavamo prima, del salva il tuo rene, cioè lo scopo è quello di informare sempre più la gente e sapere che esistono delle alternative. E questo è un dato positivo, anche se, come sappiamo, che internet non dà tutta la spiegazione, non dà la qualità dell'informazione. Per quanto riguarda la preparazione, come dicevi tu, la preparazione alla malattia, e questo è un grado culturale che c'è in tutte le città, sta migliorando. Ovviamente non troviamo più pazienti completamente abbandonati, questo li troviamo soltanto nei pazienti delle province più estreme. Direi che a Roma, ad esempio, sta migliorando molto la situazione. Ormai le malattie vengono affrontate all'inizio, ormai tutti fanno il PSA, trovano il tumore alla prostata nelle fasi iniziali, ma non solo il tumore alla prostata, anche il calcoletto renale. È difficile che troviamo un grosso calcolo a stampo che prende tutto quanto il rene, sono sporadici. Quindi direi che c'è una maggiore attenzione alla prevenzione, perché ormai da tutte le parti si dice che devono bere, tutti quanti non dicono di farsi il PSA, devono farsi il controllo. Sta aumentando l'informazione su tutti i media. Questa è una domanda maliziosa, dottor De Fidio, perché poi in realtà non nascondiamoci, da quando non chiedono più la vita eterna ai preti, anche gli italiani hanno incominciato a chiedere la vita eterna e l'eterna giovinezza ai medici, insomma, nell'ambito dell'urologia, come si comportano gli italiani con questa specie di ondata giovanilistica imperante? Beh, nell'ambito dell'urologia ci sono diversi presidi che rendono il paziente giovane, vanno dal Viagra, il Cialis, quindi farmaci che potenziano un'erezione, alle protesi per l'impotenza, direi fondamentalmente, poi anche per le patologie più comuni come quello ad esempio della ipertrofia prostatica, oggi non arriva più il paziente ad arrivare allo stadio di mettersi un catetere a permanenza, cioè oggi il paziente pensa più alla qualità della vita, quindi va dal medico quando inizia ad avere una qualità della vita disturbata. Sì, perché io credo che noi abbiamo il malvezzo di scaricare sempre la crisi valoriale laddove esistesse sui giovani e ci dimentichiamo che in realtà il vero problema dei nostri tempi è che quelle fasce di età che un tempo si mettevano in pace, che so, i 50-55 anni, pensavano che, diciamo così, la vita fosse ormai trascorsa. Oggi se un 55enne si separa e si prende una seconda moglie, nessuno si scandalizza. Cioè c'è un segmento di 20, 25 o 30 anni di vita ancora inesplorata, che va riempita anche con dei valori. E la medicina ci riesce tanto in tanto a far rimettere i piedi per terra agli italiani giovanilisti così? Non credo, cioè, questi li vedo ancora arzilli, cioè, ottantenni arzilli ce ne sono tanti, eh. Ho operato fino a 96enne l'altro giorno, qui la vita c'è finché la medicina sta aiutando molto. Bene, allora viva la vita, ci suggerisce il dottor Lorenzo De Fidio, il primario urologo dell'ospedale Cristo Re di Roma, appena concluso come presidente il quinto corso internazionale di ureteroscopia flessibile. E se volete divertirvi, guardate il sito www.savailtuorene.it e vedrete tante belle cose. Grazie dottore, grazie Alessandro, grazie Riccardo, grazie a Filippo. Voi, a risentirci.